teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bacon è rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 31 ottobre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Era una frase detta da Ippocrate qualche annetto fa. E con questo aforisma vogliamo cominciare la puntata dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, un argomento del quale in teoria non si vorrebbe mai parlare, però, visto che è un argomento scientifico, un piccolo spazio all'interno di Caccia Fotone lo meritava. E allora ne vogliamo parlare col professor Emilio Franzoni, direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Università di Bologna. Buongiorno professor Franzoni. Buongiorno a voi. Professor Franzoni, noi all'inizio abbiamo le classiche solite 100 parole iniziali per introdurre la puntata e quindi le chiedo se può riassumere in 100 parole come definirebbe i disturbi del comportamento alimentare. I disturbi del comportamento alimentare rappresentano un disagio importante di giovani e meno giovani, fascia di età fra 11-12 e 24-25 anni, che comportano problematiche di tipo alimentare come anoressia, quindi riduzione dell'alimentazione, o bulimia, che è invece mangiare smodato e assolutamente privo di freni, cui seguono condotte di eliminazione tipo vomito. Esistono anche altri problemi alimentari come l'obesità o il binge eating, cioè il mangiare compulsivo, che fanno parte del quadro dei disturbi del comportamento alimentare. Professore, intanto la ringrazio per questa sintesi, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e poi cominciamo ad approfondire l'argomento. Shivers as we stand on the brink. Out of nowhere, on the verge of tears. Can you feel my heartbeat? It will echo through the years. Moonlit legs and a misty shrine. Out of it. E bentornati cari ascoltatori a Cacciafotoni, in questa puntata in cui stiamo provando a parlare di disturbi del comportamento alimentare insieme al dottor Emilio Franzoni, e ne stiamo parlando fondamentalmente perché ci sono arrivate delle richieste proprio a Cacciafotone di trattare questo argomento dal punto di vista scientifico. È un po' vero, quando si sente parlare di questo argomento in televisione, questo argomento viene trattato, come dire, come una moda, come se la società veramente influenzasse i comportamenti, o meglio i disturbi del comportamento alimentare. Eppure questa è scienza, stiamo parlando di medicina, stiamo parlando di psicologia. E quindi, professor Franzoni, visto che le ho chiesto all'inizio 100 parole iniziali per introdurre la puntata proprio sugli disturbi del comportamento, le chiedo di chiarire meglio che cosa sono questi disturbi e in che maniera si generano. Diciamo che bisogna distinguere appunto fra i due principali attualmente elementi e disturbi e patologie, che sono l'anoressia da una parte e la bulimia dall'altra, che hanno comunque un'origine profonda, di un disagio profondo, di ferite che possono insorgere già dall'infanzia e che continuano nel prosegue dell'adolescenza, quando in effetti in adolescenza avviene la nostra seconda nascita, la rinascita, il cambiamento, e quindi possono emergere tanti disagi di cui i disturbi del comportamento alimentare possono essere un aspetto, ma penso all'alcolismo, penso al bullismo, penso alle tossicodipendenze, quindi c'è una matrice unica sicuramente. Su una predisposizione genetica, nel senso che sono famiglie dove c'è comunque una storia all'interno di questa famiglia e dove comunque il fattore scatenante può determinare il disturbo del comportamento alimentare. Fattore scatenante che può essere un lutto, può essere un abbandono, può essere una separazione dei genitori, può essere un abuso sessuale o comunque un abuso psicologico. Insomma, sono tanti i fenomeni che comunque possono arrivare a essere elementi triggeranti, scatenanti. Sia nell'ambito del rifiuto del cibo sia nell'ambito dell'uso del cibo. Professore, se potesse elencare tutte le patologie legate ai disturbi alimentari, quali sono esattamente? Allora ce ne sono diverse, molte sono allo studio, ad esempio la vigoressia, tanto per dire, che è la patologia del palestrato, della persona che cerca nel corpo una muscolatura, cerca di essere qualcuno attraverso la visione di un corpo scultoreo, ad esempio, oppure l'ortoressia, che è una patologia che riguarda solo l'alimentazione sana, sono persone che sono ossessionate dalla fobie di cibi non sani e quindi mangiano solo cibi biologici, cibi di un certo tipo, cibi che provengono da una certa zona, e questo porta a ossessioni importanti e a stare male nella relazione con gli altri. Oppure ci sono le patologie dell'alimentazione nell'infanzia, nella fascia 0-10 anni, che sono dei veri disturbi del comportamento alimentare, anche se non hanno le caratteristiche di anoressia e bulimia. Professor Franzoni, nel Fuori Onda ci parlavamo proprio del fatto che queste qui sono patologie molto complesse, perché investono sia la parte medica sia la parte psicologica. Quindi come si agisce per curare queste patologie, prima identificandole e poi cercando di fornire una cura? L'identificazione è relativamente semplice. Ad esempio, un ragazzo o una ragazza che chiedono di fare una dieta non essendo grassi, ma essendo assolutamente normali o addirittura quasi magri, questo deve mettere in seria, come dire, dubbio e sospetto i genitori. I genitori, chiaro, svolgono un ruolo fondamentale nel bene e nel male, sia come elementi che possono essere legati a questo disagio, ma anche come elementi invece che aiutano moltissimo nella ripresa dei ragazzi stessi. Quindi, come dire, non terapeuti, ma intervenuti nel percorso terapeutico. Si diceva della farmacologia, i farmaci sicuramente servono relativamente, non è una patologia che si risolve con i farmaci. I farmaci possono essere di aiuto, soprattutto quando si tratta di depressioni gravi, allora un aiuto farmacologico può esserci, ma non è certamente la terapia importante. La terapia importante è quella di sostegno, di psicoterapia, di cercare di capire da dove nasce il disagio, e in questo coinvolgimento psicoterapico naturalmente, necessariamente, deve essere coinvolta la famiglia. Professore, da quello che sta dicendo risulta anche chiaro che in realtà i disturbi alimentari altro non sono che uno spin-off della depressione, quindi dei disturbi del comportamento. Però in realtà la mia domanda è questa: la nostra società ci chiede di avere un fisico piacente, quindi un fisico bello da poter presentare al prossimo. Qual è il limite da non superare? Cioè, qual è il limite che rende uno stile di vita patologico? Beh, qui bisogna sfatare un mito, che è quello della moda, appunto, filiforme, eccetera. Certamente ha un'influenza, ma parliamo solo di influenza, non è certamente la causa. Discutevo con un direttore di una casa di moda, la Gattinoni, qualche tempo fa, proprio perché anche loro stanno cercando di modificare quelli che sono i modelli delle modelle, lasciatemi passare il termine, perché si sentono un po' in colpa, ma in realtà dal punto di vista pratico, dicevo, questi sono elementi scatenanti, come quello dell'allenatore che rinfaccia a una giocatrice di volley o una danzatrice di essere un po' cicciottella. È evidente che quello fa scattare la molla in un soggetto, come abbiamo detto prima, che purtroppo era già predisposto e che nessuno può conoscere. Quindi diciamo pure che gli elementi della nostra società ci aiutano, ma assolutamente non sono determinanti. Professore, affacciamoci in un altro argomento, quindi l'argomento dei farmaci, che forse è l'argomento meno comodo, meno facile da trattare. Quali sono i farmaci che vengono utilizzati per gestire e impattare sul problema quando si verifica, e quali invece quelli che servono per curare e gestire questo tipo di problema alimentare? E poi ancora, servono veramente i farmaci oppure no? Ma come dicevo prima, si è accennato giustamente alla depressione, che io chiamo compagna di viaggio dei disturbi del comportamento alimentare. Sicuramente se un farmaco può essere utile, è utile perché c'è da combattere la depressione. E quindi come si fa a vedere? Si fa attraverso i test e si fa attraverso i colloqui, insomma, non esistono certi, oppure ci sono certi comportamenti molto visibili di chiusura, di non relazione con gli altri, di paura di affrontare l'esterno, eccetera, che sono molto evidenti. Però di solito la depressione è un fatto subdolo, non è un caso che quando succedono degli eventi strani o violenti o importanti o tragedie la gente dica: ma non ci eravamo mai resi conto. È vero che lo si dice un po' per dirlo, però è anche vero che molte volte la depressione agisce proprio strisciante, subdolamente. Quindi i farmaci alla fine sono gli inibitori della ricaptazione della serotonina, che sono i più nuovi, i più moderni, perché la serotonina sembra giocare un ruolo fondamentale e nella buona parte dei casi agiscono anche abbastanza bene, però non illudiamoci che il farmaco risolva questi problemi. Professor Franzoni, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torneremo in studio e poi continueremo a parlare di questo interessantissimo argomento. Certo. Talking to you. E dopo aver ascoltato questo piccolo pezzo musicale siamo ritornati in studio insieme al professor Fanzoni per parlare di disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo parlato nella prima parte di cosa sono questi disturbi, come si possono curare, ma la seconda parte in realtà la cominciamo in un altro modo. Uscì nel 2002 un articolo su PubMed che identificava la presenza del marker DS2367 all'interno del cromosoma 1 in soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare. E quindi la mia domanda è questa: esiste un'origine genetica di questo tipo di disturbi? Questa è una bellissima domanda, apertissima, difficile, perché oggi sappiamo che è sicuramente una genesi multifattoriale, cioè ci sono tanti fattori, compreso quelli ambientali che sono fortissimi, che giocano probabilmente un ruolo. Io credo che se ci metteremo, come per esempio anche noi, fra poco dobbiamo iniziare uno studio con i colleghi della genetica di Brescia, se ci metteremo a capire questi aspetti, troveremo poi non solo un cromosoma e non solo un gene, questo è quello che ci si aspetta, e per questo la cosa è assai difficile, anche perché è vero che esistono dei casi che sembrano molto simili, non dico uguali perché nessun caso è mai uguale a un altro, però hanno caratteristiche che hanno, diciamo, storie simili, eccetera. Quindi ti fa venire in mente che ci sia una genesi genetica comune, però è anche vero che le esperienze della vita sono diverse per ciascuna persona, quindi potrebbe darsi che quella determinata persona con la predisposizione genetica non incontra, per sua fortuna, un evento traumatico in qualche modo, e quindi, nonostante abbia la predisposizione, per fortuna sua, ripeto, non sviluppa l'anoressia o la bulimia. E quindi questo però la dice lunga di quanto ancora noi siamo indietro. Per esempio, certi comportamenti dei bambini piccoli che rifiutano il cibo in modo diverso, per esempio all'asilo nido o a casa, sono oggi elemento di nostro studio per capire se la genesi, la radice, viene da lontano oppure no. Avete fatto degli studi di popolazione su questi tipi di disturbi? Stiamo per concluderne uno, magari ci risentiremo dopo che abbiamo i dati statistici, su una popolazione di 600 bambini delle scuole elementari di Bologna nell'età tra 8 e 10 anni, diciamo da 8 perché è più possibile trarre degli elementi, delle risposte credibili e valide, statisticamente studiabili, e incrociati questi 600 bambini con le risposte date nei questionari dai loro insegnanti e dai loro genitori. Quindi questo è molto importante, perché non dobbiamo pensare, ad esempio, come ancora oggi molti pensano, che una buona campagna sulla buona e sana alimentazione possa essere prevenzione, perché parlare di prevenzione con la P maiuscola ancora siamo purtroppo abbastanza lontani. Quindi, se potessimo ricapitolare, la presenza di questo marker all'interno del cromosoma 1 non è identificativa del fatto che la patologia nasca sicuramente, ma è identificativa del fatto che la patologia in particolari condizioni possa nascere. Tanto non è ancora significativa che sia quella, ma sono studi su famiglie, quindi ci vorranno ancora altre conferme rispetto a quello. Non è un caso che il lavoro sia del 2002, in effetti non ci siano stati degli sviluppi particolarmente importanti, però l'idea e la tendenza è quella di capire dove, se esista un unico punto, oppure se ci esistono, come in altre patologie neuropsichiche, appunto dei diversi geni in diversi cromosomi. Questo purtroppo ci crea ulteriore confusione e ci fa capire comunque come e quanto l'importanza dell'ambiente, cioè ambiente inteso come comportamenti generali, relazioni, ecco, noi battiamo molto sul concetto della relazione come vera prevenzione del disturbo del comportamento alimentare, possano essere importanti, associati evidentemente a questa, chiamiamola per oggi, fantomatica ma sicuramente presente predisposizione genetica, che ancora però non è ben definita. Senta professore, cerchiamo un attimo di identificare alcuni step. Allora, un soggetto si accorge di essere affetto da questa patologia, quindi si reca alla FANEP. A questo punto che cosa succede? Qual è il primo step? Qual è il secondo? Qual è il terzo? Cioè, in che modo quindi la persona viene curata e o indirizzata nel percorso di cura? Intanto volevo solo fare una premessa su questa assist che mi ha dato rispetto alla FANEP. La FANEP è l'associazione che da 26 anni collabora con noi e quindi ha reso possibile molta parte del lavoro sui disturbi del comportamento alimentare, ma non solo, perché per esempio collabora da sempre anche nel campo dell'epilessia, che è un altro grande argomento di interesse della unità operativa. Ma la strada è quella di attivare, di entrare nel percorso ambulatoriale, dove un'equipe composta da uno psicologo, da un medico e da una dietista ascoltano, affrontano nelle diverse sfaccettature questa persona, questa ragazza, questo ragazzo. Ricordiamoci che di anoressia prevalentemente si parla al femminile nel 90%, ma questo 10% di maschile è cresciuto nel corso degli ultimi 10 anni. Siamo partiti da 1-2% e oggi siamo al 10%. Questo vuol dire che anche nel maschio purtroppo il disturbo sta crescendo. E quindi dall'ambulatorio ci sono due opzioni a seconda della gravità. Se la situazione peggiora, il peso cala drammaticamente, la parte psicologica è molto compromessa, il reparto fino a 18 anni, che è l'età specifica della neuropsichiatria infantile, purtroppo si apre, ci sono 5 posti letto che vengono occupati da ragazze e ragazzi Emiliano Romagnoli prima di tutto, ma anche un po' da tutta Italia. E quindi lì ci si ferma per almeno 3 mesi in un percorso che diventa quotidiano, proprio legato alla sofferenza grave. Mentre invece il day hospital viene riservato a ragazze e ragazzi dai 18 ai 24 anni per dare una risposta per ora momentanea in una città che ancora per questa fascia di età non dà praticamente molto. Professor Fanzoni, c'è un motivo vero per cui le ragazze sono più affette in percentuale di disturbi alimentari rispetto ai ragazzi, anche se la cosa sta cambiando in quest'ultimo periodo? Beh, diciamo che questo rientra nel discorso della predisposizione genetica sicuramente, da un lato, dall'altro è la concezione del corpo, che è assolutamente diversa tra maschio e la femmina, e quindi l'importanza del corpo nella donna è nota, non devo spiegarla io, per cui diciamo che poi certe fissazioni, le cosce, le anche, il grasso che si deposita come magicamente in punti diversi da altri, cioè sono tutti aspetti a cui la donna è molto più legata, e qui può venire fuori il bombardamento della moda, le diete, tutta una serie di cose che, ripeto, non sono la causa, ma certamente aiutano se ci fosse una cultura diversa. Professore, le voglio fare un'ultima domanda. Visto che ormai siamo in conclusione di trasmissione, secondo lei il futuro delle cure verso i disturbi alimentari quale sarà? Bellissima domanda questa, nel senso che oggi che ormai ne parliamo, dal nostro centro è attivo dal 93-94, anche se è solo dal 99 che è stato riconosciuto come centro regionale, però diciamo che abbiamo imparato tante cose, ma ci stiamo rendendo conto che non ne sappiamo ancora tante. Le metodologie di approccio sono diverse, dalla psicoterapia psicodinamica, cioè di un approccio legato al rapporto con il paziente in modo da conoscere profondamente il disagio che sta a monte di questa situazione, oppure cognitivo-comportamentale, dove si analizzano gli elementi che portano a questo disturbo e si cerca di dare dei comportamenti che tendano a togliere. Ad esempio, abbiamo parlato poco di bulimia. La bulimia, per esempio, dobbiamo purtroppo dire che è decisamente più invalidante rispetto all'anoressia, che è una malattia che alla fine si vede perché la persona mostra un corpo che non c'è più. Mentre invece la persona che soffre di bulimia arriva ad avere un corpo che può essere anche perfettamente normale, ma con queste sue abbuffate e condotte di eliminazione, che spesso non si tratta altro che di vomito, stanno malissimo nei giorni in cui capita, se non addirittura tutti i giorni, e si sentono di nascondere questa loro sofferenza fino a che non ce la fanno più e chiedono aiuto. Ecco, un'altra cosa, il chiedere aiuto è difficilissimo sia nella che nella bulimia.